In generale dobbiamo tenere presente che nel mondo ci sono circa 250 milioni di persone con disabilità visive, 36 milioni affette da cecità, oltre 200 milioni di ipovedenti che hanno disturbi visivi gravi e moderati. La maggior parte di questi vivono nei paesi in via di sviluppo, solo in Africa ci sono circa 5 milioni di non vedenti e 16 milioni di ipovedenti. Chiaramente la visione consiste nella maggior parte delle percezioni di una persona. Avere una non visione o un'ipovisione rende la vita anche poco degna. Noi vogliamo lavorare nella dignità delle persone, vogliamo lavorare nella cecità evitabile, vogliamo combattere la cecità evitabile il più possibile, e questo ha spinto alcuni medici, alcuni infermieri a partecipare a questa associazione. Tutto ha inizio in realtà con l'incontro di due persone, Gianluca Laffi, il fondatore di AMOA, nel 1988 incontra in Svizzera un giovane medico senegalese, fanno un periodo di specializzazione insieme e insieme sognano di portare questi valori della salute visiva e della dignità anche in Senegal. E poco alla volta l'associazione si è formata anche formalmente nel 1995 e da lì ha iniziato un lavoro che continua tutt'oggi. Noi cerchiamo di seguire in generale i principi di salute globale e le linee guida dell'OMS. Nelle linee guida dell'OMS ci sono varie indicazioni e noi fondamentalmente cerchiamo di metterne in pratica tre. La prima, l'allestimento di strutture in maniera che abbiano l'attrezzatura indispensabile per portare una salute decorosa e portare una pratica dell'oftalmologia a livello accettabile. La seconda è di formare il personale locale. Noi cerchiamo di rendere le strutture in cui interveniamo il prima possibile indipendenti, sia dal punto di vista dell'equipaggiamento e dal punto di vista della formazione del personale locale. Chiaramente queste prime due cose necessitano di una grossa opera di formazione, di contatti, di cercare di capire chi sono quelli bravi, chi sono quelli meno bravi, ed è un lavoro enorme che però ormai siamo diventati capaci di fare. La terza cosa che facciamo è facciamo direttamente delle missioni chirurgiche, mediche. Io stesso l'ultima missione l'ho fatta in Ghana 20 giorni prima del lockdown nel febbraio 2020 e lì ho operato 65 persone e ho fatto formazione su due medici locali per cercare di insegnare loro delle tecniche chirurgiche in maniera da essere completamente autonomi. Noi cerchiamo di fare una chirurgia degna e di dare delle attrezzature che funzionino bene in maniera che anche i pazienti dell'Africa possano avere delle prestazioni di livello quantomeno buono. AMOA ha 12 progetti in 9 stati dell'Africa e stiamo lavorando a tutti questi, però ne abbiamo alcuni principali. Il primo è il progetto che abbiamo in Etiopia, all'ospedale di Adwa, in cui le suore salesiane hanno fondato un ospedale che anche adesso, in epoca di guerra civile, è l'unico presidio organizzato che è capace di dare cure a tutta la popolazione, anche cure generaliste. L'altro progetto importante è quello del Camerun. In Camerun noi abbiamo il nostro fiore all'occhiello, Emmanuel Grabà, che è un nostro collaboratore, è un TSO, è un tecnico superiore di oftalmologia, è un po' di più di un infermiere, è stato formato alla chirurgia e alla clinica, riesce a operare autonomamente 300 persone all'anno, 6.000 consultazioni all'anno. Stiamo formando in Camerun Magellan al ruolo di ottico. Abbiamo appena spedito un nuovo microscopio operatorio e abbiamo un'equipe che anche in periodo di lockdown nel 2020 è riuscita a fare quasi 190 interventi senza che noi facessimo nient'altro che il supporto economico, clinico, ma a distanza. L'altra progetto importante che abbiamo in Ruanda. In Ruanda noi sovvenzioniamo da anni e andiamo anche personalmente praticamente a operare nella lotta al retinoblastoma, un terribile tumore infantile molto più frequente in Africa che in Europa, ma presente anche in Europa. e noi cerchiamo di appoggiare il centro chirurgico di Kigali, dove lavora il dottor Pete Noé, e appoggiandolo abbiamo ridotto la mortalità dal 100% al 63%, e sono risultati secondo me ben più che apprezzabili e che mi fanno venire i brividi solo pensare che una percentuale di questi bambini riesca a sopravvivere e riesca ad avere una vita degna.